Radio 24 Reportage. Italia creativa. Dalle idee sempre più forza al paese. Di Marta Cagnola. L'Italia creativa va bene, ma i margini di crescita ci sono e anche buoni. Secondo lo studio realizzato per il secondo anno da EY Ernst & Young, con il supporto delle principali associazioni di categoria guidate da MIBACT e SIAE, nel 2015 l'industria culturale ha fatturato 47,9 miliardi di euro, pari al 2,96% del PIL, con un tasso di crescita rispetto all'anno precedente del 2,4%, a fronte di un aumento del PIL dell'1,5%. Se nel 2015 il valore economico dell'industria culturale e creativa italiana è pari a 48 miliardi, il valore potenziale raggiunge i 72 miliardi. La filiera creativa occupa oltre 1 milione di persone, circa il 4,6% della forza lavoro italiana, rimanendo il terzo datore di lavoro, prima dei settori alberghiero-ristorazione e costruzioni. Punti di forza e punti di debolezza nelle parole di Donato Iacovone, amministratore delegato di EY. Il dato fondamentale è che cresce sia in termini di fatturato questo settore attorno alla cultura e alla creatività più del PIL, quindi il doppio del PIL, cresce sia in termini di valore come fatturato che in termini di occupazione. È un settore in cui il digitale per un periodo è stato considerato più un nemico che un amico, e questo è un dato. La pirateria è un furto al settore che aumenta. Tuttavia il digitale può dare grande opportunità a questo settore per la capacità di creare connessione fra diversi settori. Quindi il digitale, io credo, e anche se investiamo sulla cyber security, cioè sulla sicurezza del download, cioè di discarichi sul web, credo che possa aumentare le opportunità per questo settore. Conferma l'idea di un trend interessante, ma anche dei problemi relativi alla pirateria e al cosiddetto value gap, ossia il divario tra quanto viene generato dai contenuti creativi in rete e quanto viene restituito ai creatori, il presidente di SIAE, Filippo Sugar. Il trend è molto interessante perché quest'anno, cioè l'anno scorso, 2015, siamo indietro sempre di un anno con queste ricerche. Il nostro paese ha visto una crescita del prodotto dell'industria creativa più alta rispetto a quella del paese, e soprattutto da un punto di vista degli occupati abbiamo un 1,7% in più di occupati in questo settore industriale, che è il doppio rispetto alla crescita dell'Italia. Poi la ricerca di quest'anno cerca di guardare oltre e dice: ma che cosa potrebbe accadere se seguiamo tutta una serie di strategie importanti per questa industria in un rapporto tra pubblico e privato costruttivo? Cioè, dove potrebbe arrivare questo settore per il nostro paese? E questo direi che è il dato più eclatante, perché c'è sullo sfondo il potenziale di aumentare il giro d'affari di un terzo, quindi di raggiungere oltre 70 miliardi di giro d'affari, ma soprattutto di creare 500.000 posti di lavoro in più in Italia. Perché questo è un settore che genera lavoro in Italia, molto spesso con aziende italiane che operano in Italia, ed è un settore che attrae molti giovani e molte donne. Da una parte abbiamo delle minacce, una minaccia importante ovviamente per questo settore è la pirateria, cioè l'utilizzo dei contenuti che questo settore produce e che vengono, diciamo, non remunerati. Poi abbiamo delle opportunità, sicuramente alla politica dobbiamo chiedere sinergia, cioè una visione d'insieme, una visione del futuro del nostro paese che punta su il nostro patrimonio culturale del passato e del presente e del futuro. Facciamo degli esempi: noi come aziende dobbiamo investire sulla digitalizzazione per ridurre lo spazio tra il consumatore e i nostri prodotti, quindi utilizzare il digitale, dobbiamo utilizzare i social per promuovere i nostri contenuti, dobbiamo indubbiamente internazionalizzare, dobbiamo portare i nostri contenuti all'estero, quindi chiedere un supporto da quel punto di vista come hanno altri settori industriali italiani, dobbiamo lavorare sulla formazione per creare figure professionali adatte a lavorare nel nostro settore. E quindi, diciamo, è un lavoro in sinergia con il pubblico, ma dove molto dobbiamo fare noi, e dobbiamo avere un governo che ci sostiene. Nel Nel 2015 i valori economici diretti di tutti i settori creativi e culturali risultano in crescita, ad eccezione del settore quotidiani e periodici, che registra un calo di poco superiore all'8%. Il settore che invece è cresciuto maggiormente in termini di valori economici diretti è quello della musica, in aumento del 10% rispetto al 2014, più 9,5% per i videogiochi, più 9,3% per la radio. Dal punto di vista occupazionale, il settore che ha registrato la crescita maggiore è quello dei videogiochi, con un più 7,8% rispetto all'anno precedente. Va bene anche per la musica, più 6,1%, eppure i musicisti non sono coscienti di rappresentare un settore importante. A chi lavora con la creatività serve maggior consapevolezza del proprio ruolo, ha dichiarato alla presentazione del rapporto Italia Creativa Manuel Agnelli. Sono tutti consci della crescita esponenziale di questo settore e tutti gli addetti ai lavori sono consapevoli che ormai rappresenta una parte della nostra economia fondamentale, no? E che fa anche da traino per altre parti della nostra economia. Sono tutti coscienti tranne i musicisti e forse anche il pubblico. E questa è una cosa molto grave in realtà, perché i musicisti sono i primi a non considerarsi tali, non considerarsi una categoria professionale. C'è bisogno di fare moltissima informazione, anche perché non soltanto per noi che siamo i diretti interessati, ma anche a livello educativo, credo. Molto importante che il pubblico che compra i dischi si renda conto dell'importanza e del lavoro che c'è dietro i dischi, dietro la musica, e si renda conto che ogni volta che scarica illegalmente qualcosa in realtà sta creando un danno a qualcuno che invece ci vive. Hai detto bisogna slegare le mani agli imprenditori che fanno cultura, in che senso? Quello che io spingo perché venga realizzato è la semplificazione burocratica, soprattutto lo snellimento burocratico e la semplificazione. Si sta lavorando per lo sportello unico in molte città d'Italia, dove sarebbe più facile andare a ottenere i permessi per organizzare i concerti, ma occorre anche un minimo di elasticità nel gestire le regole per far sì che appunto questo mondo abbia una spinta anche da parte delle istituzioni e non soltanto un limite, un freno con i controlli che ci sono, no? Non è un caso che negli anni 90 moltissime attività, perché non c'erano regole, alla fine abbiano costituito veramente una parte fondamentale della base di questo nuovo sistema. Non dobbiamo tornare lì, però non dobbiamo neanche buttare via quel tipo di energia, insomma, perché c'è ancora. Delle industrie creative fa parte la musica, certo, ma i settori sono tanti e tante le associazioni di categoria, da quelle del cinema come AGI, SANEC, ANEM o ANICA, a quelle dell'audiovisivo come Univideo, dei videogiochi come AESVI, della TV come APT o dei giornali come FIEG, ma anche appunto le associazioni legate alla musica. In occasione della presentazione del secondo rapporto d'Italia Creativa, 26 associazioni hanno inviato una lettera al governo in cui viene chiesto un impegno concreto nella protezione dei diritti dei titolari dei contenuti creativi e culturali in Europa. Il vicepresidente di Confindustria Cultura e presidente FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, Enzo Mazza. Quello che l'industria creativa chiede è un sostegno al governo italiano su questa proposta di direttiva copyright, che è la direttiva sull'innovazione digitale, che è all'esame del Parlamento europeo, è stata proposta dalla Commissione, e l'Italia è sempre stata un grande sostenitore dell'industria creativa. È un tema chiave quello di oggi, noi chiamiamo value gap, cioè le remunerazioni nell'ambito delle tecnologie, dell'industria di tecnologia rispetto alla filiera dei contenuti a livello globale, e questo va sanato, nel senso che va costruito un modello di trasparenza, un modello che serva a tutte le imprese e agli artisti, agli autori, per godere di quello che è lo sviluppo del digitale, godere di una remunerazione equa e trasparente rispetto agli utilizzi che vengono fatti dei contenuti, e questo è parte di questa direttiva. A rispondere alla richiesta delle associazioni di settore, proprio alla presentazione di Italia Creativa, il ministro dei beni culturali e turismo, Dario Franceschini. Gli impegni, l'appello che mi avete consegnato, a cui voglio aggiungere anche una cosa da dire a Manuel Agnelli, condivido che c'è bisogno di una, forse la legge, il DDL sullo spettacolo potrebbe essere il luogo in cui definire e introdurre delle forme di riconoscimento dello status di musicista, come dire, migliorando il sistema delle tutele. Le due cose che chiedete assolutamente sono state al centro del nostra presidenza del semestre europeo, e cioè la tutela del diritto d'autore e il contrasto alla pirateria. Sembrano due cose scontate, ma non sono due cose scontate. La tutela del diritto d'autore, come la pensiamo noi, non è condivisa nemmeno da tutti i paesi europei. Ma la cosa più fondamentale è anche un'altra volta l'educazione. Con il ministro Fedeli stiamo ragionando su una campagna di promozione su questi temi molto forte all'interno delle scuole. Insomma, io penso davvero che, quindi, come dire, anche sui punti del vostro appello, sono assolutamente per dire sì, sarà uno dei nostri impegni a livello europeo, e soprattutto proprio per dimostrare che davvero il settore delle industrie culturali e creative, che è un'opportunità per il nostro paese, è anche un'opportunità per l'Europa. Ecco, io penso che l'Europa abbia delle potenzialità straordinarie se investe su quello su cui è più forte, e cioè la creatività, i talenti, la conoscenza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.